Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Lo sapete qual è il marchio che vale di più al mondo? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, avete pochi secondi per pensarci, ve lo sveliamo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. La risposta, ve lo anticipo, non è difficilissima, è una conferma, molti di voi lo avranno già indovinato. Parleremo anche di biodiversità e spesa intelligente, focus sui trend, dedicato infine a consumi e abitudini, quando la ripetizione fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. È il cibo l'ultima frontiera delle stampanti 3D. L'americana Sugar Labs sforna strutture di zucchero commestibili da impiegare per decorare torte o cupcake, sfruttando la scia della moda del cake design. E un ingegnere ingaggiato dalla NASA ha indicato addirittura la pizza come uno dei cibi più facili da replicare con stampanti 3D. Si terrà a Ferrara dal 7 al 9 giugno la prima edizione di Altro Consumo Festival. Risparmiare, provare i prodotti e mangiare sano, i temi principali, per condividere scelte utili e consapevoli su RC Auto, telefonia, carte di credito, prodotti di largo consumo. Rihanna cita in giudizio Top Shop per 5 milioni di dollari. La pop star ha intrapreso un'azione legale contro la catena di abbigliamento inglese a causa di una linea di t-shirt con la sua immagine. I capi vengono venduti solo nel Regno Unito, dove i diritti dell'immagine sono di proprietà del fotografo che ha scattato la foto e non della persona ritratta. Ed è in vendita per 5 milioni di euro la prima residenza privata realizzata nel 1987 dal noto designer francese Philippe Starck a Parigi. Il palazzo, in cemento e con ampie vetrate, ha una struttura particolare. È largo solo 6 metri e si sviluppa in altezza su diversi piani. Un giardino con pontile privato dà accesso alla Senna. La borsa della spesa. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Ebbene sì, è di nuovo Apple il marchio che vale di più al mondo, ve lo abbiamo svelato facendovi riascoltare le parole ormai famosissime pronunciate dal suo fondatore Steve Jobs. A confermare il primato della mela morsicata, l'edizione 2013 della classifica dei 100 brand più forti al mondo, stilata da Millward Brown, è giunta alla sua 8ª edizione, classifica che assegna ad Apple un valore pari a 185 miliardi di dollari. Samsung, il suo principale competitor, cresce di oltre il 50%, accorcia dunque le distanze, ma si ferma al 30° posto con un valore di soli, si fa per dire, 21 miliardi di dollari. Una classifica in cui è la tecnologia a farla da padrona. Secondo brand più forte è infatti Google, che ha scalzato IBM, ora terza. Seguono nella top 10 McDonald's, Coca-Cola, AT&T, Microsoft, Marlboro, Visa e China Mobile. Trovate tutta la classifica, se volete, sulla nostra pagina Facebook. Solo due le aziende italiane in classifica, entrambe del settore lusso: Gucci al 68° posto e Prada al 95°. Degno di nota anche il sorpasso, è il caso di dirlo, dei giapponesi della Toyota sui tedeschi della BMW. Vincenzo Zulli, direttore marketing di Millward Brown Italia, al microfono della nostra Daniela Abbrunzo. Il vero dato che emerge ancora è che il valore dei primi 100 brand anche quest'anno è cresciuto. E se guardiamo negli ultimi anni, del 70%, per un valore complessivo di circa 2.600 miliardi di dollari. Nello specifico, la cosa rilevante che notiamo è che anche quest'anno, come una tendenza che ormai registriamo da qualche anno, a farla da padrona sono di nuovo i brand del settore tecnologico e delle comunicazioni. questo, se vogliamo, è un fatto anche abbastanza evidente e normale, legato al fatto che oggi la continua, costante, progressiva digitalizzazione, informatizzazione anche della vita familiare è diventato un elemento chiave che rende questi brand che operano in questi settori più forti. Oggi la crisi la sentiamo tutti, ovviamente. Però i brand forti sono quelli che sono capaci di rendersi distintivi all'interno del proprio set competitivo, e quando si parla di distintività si parla di qualcosa che differenzia il brand e che nella mente dei consumatori è percepito come differente e migliore, e questo aiuta certamente non solo a mantenere la quota di mercato a crescere, ma anche nei momenti difficili a resistere a quelle che sono le contingenze legate al contesto economico, ma soprattutto sono anche in grado di reagire meglio a momenti di difficoltà. L'elemento di distintività è fondamentale perché poi è quello anche che permette al brand di avere meno problematicità e gli consente di gestire meglio quello che è anche il suo prezzo di vendita e a guidare il premium price sostanzialmente. In questo Apple, a differenza di altri brand, ma anche altri brand hanno fatto cose interessanti, magari come marketing mix leggermente diverso, però sono stati certamente distintivi e nella mente dei consumatori. Noi lo vediamo nei prodotti Apple che ancora oggi sono ritenuti ancora quelli che fanno la differenza. Il 22 maggio scorso si è celebrata la Giornata Mondiale della Biodiversità, un'occasione per parlare di spesa intelligente, perché essere green e rispettare l'ambiente e la biodiversità passa anche da qui. Lo facciamo con una testimonial d'eccezione, la conduttrice TV Tessa Gelisio. La spesa e i nostri consumi sono quelli che vanno a incidere maggiormente, insieme poi ai nostri comportamenti, i nostri consumi per esempio energetici, sull'ambiente. Per esempio, per quanto riguarda la biodiversità, è il nostro stile di vita che sta portando così tanti cambiamenti repentini al pianeta che sta causando quella che gli scienziati chiamano la sesta estinzione di massa, perché al momento attuale, secondo molti studi, siamo all'incirca sulle 30.000 specie che si estinguono ogni anno, si estinguono per sempre. Questi ritmi sono veramente paragonabili a quelli che per esempio hanno portato all'estinzione di massa. Quindi i nostri comportamenti, la nostra spesa possono incidere favorevolmente o sfavorevolmente proprio sul numero delle specie che si estinguono, oltre che sulla qualità poi del nostro pianeta. Risparmiare ma comprare prodotti buoni è possibile? Possiamo dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori? Sì, è possibile per esempio anche mangiare biologico e risparmiare. Può sembrare una contraddizione in termini, ma non lo è. Dipende come si fa la spesa, dove, come e quando. Come prima cosa bisogna ritornare al rispetto delle stagioni, perché mangiare frutta e verdura di stagione ci permette di risparmiare all'incirca il 40%. Un altro trucco per risparmiare è quello di accorciare la filiera, quindi iscriversi a un GAS, un gruppo d'acquisto solidale. Si fanno acquisti in stock, in gruppo, dai produttori, avendo prodotti di ottima qualità a prezzi super accessibili. Poi bisogna anche ritornare un po' allo sfuso, i prodotti sfusi costano meno. Un cespo di lattuga, per esempio, tagliato e insacchettato e pulito, costa, mi sembra, dalle 30 alle 40 volte in più rispetto a un cespo di lattuga non lavorato. E poi bisogna ridurre anche il consumo di carne, che comunque è un alto impatto ambientale oltre che un altro costo. Per quanto riguarda invece il pesce, un trucco per risparmiare è quello di ritornare a mangiare i pesci poveri, i pesci meno conosciuti, molto buoni, saporiti, che tra l'altro ci ricordano anche quanto sia buona la biodiversità in mare. Essere e avere. Abitudine tra noi è un soggetto da evitare, tra le frasi di dolore, gioia e desideri. Di nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend. Oggi parliamo di consumi e abitudini. Lo facciamo in compagnia della nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Lab. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Quanto contano, quanto pesano le abitudini nel mondo dei consumi? Quanti prodotti, quanti servizi compriamo perché siamo abituati a farlo e non perché ne abbiamo effettivamente bisogno? Lo sapete che esiste un vero e proprio marketing delle abitudini che fa leva sull'acquisto ripetuto? La maggior parte delle scelte che compiamo ogni giorno, dicono gli esperti, non sono frutto di riflessioni consapevoli, bensì di abitudini. Patrizia. Le abitudini quotidiane influiscono molto sulle nostre decisioni, sui nostri comportamenti, anche quelli di consumo. Sono dure a morire perché, come dicono gli scienziati, il cervello trasforma le sequenze di azioni che facciamo più spesso, lavarsi i denti, guidare, usare il computer, fare una pasta al pomodoro, in routine, semplicemente per sforzarsi di meno. È una legge evoluzionistica e questo in chiave marketing è un vantaggio che molte aziende sfruttano, un vantaggio legato alla prevedibilità. Pensiamo agli anziani, alla terza o alla quarta età, abitudinari per eccellenza, che lo sono anche nei loro comportamenti di consumo evidentemente, ma anche ai bambini o alle neomamme o alle donne con le loro routine casalinghe, target con schemi base ben precisi. E a proposito di donne e pulizie, nel suo recente libro La dittatura delle abitudini, Charles Duhigg, reporter del New York Times, racconta tra gli altri il caso di Procter & Gamble e del lancio di un vendutissimo deodorante per ambiente, inizialmente un flop di mercato, proprio perché non si erano capite le abitudini delle potenziali acquirenti, ovvero chi pulisce ha dei suoi rituali ben precisi, inalterabili, e quello che infatti ha fatto la fortuna di Febreze, questo è il nome del deodorante, è stato non sovvertire quegli automatismi consolidati, ma aggiungersi alle abitudini. Infatti è usato non per togliere gli odori, è assodato che nessuno sente quelli di casa propria e comunque li toglie come ha sempre fatto, ma come spruzzo finale per profumare stanze, tappeti, divani appena puliti. Le aziende ci conoscono molto e sempre di più. Sanno moltissimo sulle nostre vite, sui nostri comportamenti di consumo, ormai tracciabili e mappabili, poiché sia online che offline i nostri dati personali e quelli relativi ai nostri acquisti sono tracce permanenti che incrociate appunto ci profilano. Gli usi in chiave marketing, un caso interessante. La catena di negozi alimentari americana Kroger, che ha più di 3.500 punti di vendita, offre sconti personalizzati in store basati proprio sullo storico degli acquisti ricavabile dai dati degli scontrini raccolti con le carte fedeltà. Quindi se un brand lancia una nuova bibita, chi ha una storia di acquisti dei prodotti di quel brand avrà uno sconto e gli altri lo pagheranno a prezzo pieno. Tutto questo avviene semplicemente alla cassa, che calcola direttamente i prezzi diversificati e premia i suoi clienti più abitudinari, che quindi non devono più maneggiare coupon cartacei o altro. Un modo innovativo per trasformare l'acquisto di prodotti di un certo marchio in abitudini rinforzate con questo espediente. Secondo la teoria sulla formazione delle abitudini, campo di ricerca al centro di grandi investimenti degli istituti di neurologia, di psicologia e soprattutto dei laboratori aziendali, siamo tutti schiavi dei cosiddetti habit loops, dei circoletti viziosi composti di tre fasi, che rimanendo su questo esempio sono lo stimolo, la sete, il desiderio di bere, la routine, il gesto, l'acquisto della nuova bibita, e la gratificazione, lo sconto. Si diceva che sono dure a morire le abitudini, ma si possono anche cambiare cambiando la gratificazione, che può essere associata a nuove routine. Poiché appunto le abitudini non si possono sradicare tout court, bisogna associarne di nuove al vecchio stimolo e alla vecchia gratificazione. La routine infatti diventa irrilevante se la gratificazione è la stessa. Si basa su questo stesso assunto la funzione Clean Your Mind, pulisci la tua mente, dell'aspirapolvere Ultra Silencer di Electrolux. Silenziosissimo aspirapolvere che trasforma la routine della pulizia in una sessione di meditazione accompagnata da 6 tracce musicali dedicate. L'idea in questo caso è di rendere contemporanei sia la routine che la gratificazione. Prodotti che salvano da abitudini consolidate ma con effetti spiacevoli, come andare a ballare con le scarpe tacco 12. Speciali ballerine low cost vendute nei distributori automatici posizionati fuori dalle discoteche sono una soluzione paracadute per chi esce con i piedi provati e con pochi euro può tornare a casa camminando comodamente. In questo caso è l'abitudine che ha generato un prodotto specifico. E c'è un film che più di ogni altro mette in scena le abitudini quotidiane, l'inesorabile ripetersi degli eventi. È un film cult che racconta la vita di un uomo costretto a rivivere lo stesso giorno all'infinito. Ricomincio da capo. In piedi, campeggiatori, camperisti e campanari, mettetevi gli scarponi. Oggi fa freddo. Qui fa freddo ogni giorno, fa freddo. Non siamo mica a Miami Beach, sai? Sì, infatti. Avete messo il nastro di ieri, imbranati. Dovete aspettarvi un viaggio difficile, perché c'è una bufera in arrivo. Una bufera in arrivo? La grande domanda sulle labbra di screpolate. Tutti. Le labbra screpolate, guarda le mie. Screpolate. E va bene, quando Phil la marmotta verrà fuori, vedrà la sua ombra? Panzatuni Phil. In gamma, marmottine e marmottoni, oggi è il giorno della marmotta. Buongiorno. Va a vedere la marmotta? Sì. E sarà una primavera precoce? Non abbiamo fatto questo numero ieri. Come sarebbe a dire? Non prendermi in giro, prosciuttone. Che giorno è oggi? Il 2 febbraio, signore. È il giorno della marmotta. Già. Scusa. Io credevo fosse ieri. Patrizia, cosa succede invece quando si infrangono le abitudini? Anche la situazione opposta a quella che abbiamo descritto fino ad ora può essere una leva di marketing. Sì, certamente, sapendo quanto ci condizionano le abitudini e come si formano, può diventare una leva di marketing anche il contrario, cioè la randomicità, la casualità, cioè l'infrazione delle abitudini. E se pensiamo a grandi fenomeni quali i temporary store, i flash mob, il cibo on the go, insomma tutto quello che ha come matrice una logica spiazzante o l'effetto sorpresa, funziona proprio perché è imprevisto rispetto a delle abitudini. Brand e aziende conoscono le nostre giornate, possono contattarci e intercettarci nei vari momenti delle nostre vite, mentre ci spostiamo, mentre lavoriamo, andiamo in tintoria a fare la spesa o stiamo in casa, insinuandosi per offrirci nuovi stimoli alternativi alle nostre abitudini e relative gratificazioni. Aveva bene in mente gli stili di mobilità di Shanghai, l'iniziativa per esempio di comunicazione di Adidas che rompe la routine dell'attesa della metropolitana. Ogni anno ti tocca aspettare sulla banchina per circa 1824 minuti. Non perdere questo tempo, avvicinati e prendimi a pugni. Questo era il messaggio stampato a grandi lettere sui punching balls, le sacche da box installati alle fermate del metrò. Calci e pugni dati o anche solo pensati, la stazione diventa una palestra, quindi un'abitudine che cambia di segno. L'attesa da accumulatore di stress diventa generatore di benessere. Ho citato il lavoro e le sue routine, tra cui spicca la pausa pranzo, un tempo interstiziale in cui le abitudini piuttosto banali, mangiare nei dintorni dell'ufficio, non sempre ci rigenerano. Nuova abitudine in direzione contraria avvistata a Stoccolma, si chiama Lunch Beat, nato nel 2010, è un nuovo fenomeno urbano aggregativo che combina cibo e musica e rende straordinaria l'ordinarietà e la funzionalità del pranzo veloce settimanale di chi non ha più di un'ora. Lunch Beat offre un'ora di musica elettronica, sandwich, frutta e bevande, ma niente alcol. Segnala di volta in volta dove si trova la location dell'evento, che va dai parcheggi al Museo Reale di Stoccolma. Il costo è 60 corone, circa 6 euro. Volume al massimo sin dal primo minuto, proprio per scollegarsi con il mondo per un'ora. Ma anche la startup di delivery food di New York, Randwiches, sandwich randomici casuali, ha questa idea di business: consegnare panini senza menù, quindi non si possono scegliere, arriva quel che arriva. Effetto sorpresa. Per rendere più malleabili le abitudini ci si può anche far aiutare, per esempio da app che calcolano per noi le nostre cattive abitudini, quelle alimentari per esempio in generale associate allo stile di vita, e in base a questo stima la nostra potenziale longevità. Si chiama il test della vita. Come sappiamo, le abitudini e lo stile di vita impattano su salute e benessere tanto quanto o di più della dotazione genetica, dunque un richiamo alla responsabilità individuale. Cattiva abitudine per eccellenza, dormire troppo. Anche qui la comunità della rete interviene. Su bidust.ru, sito per dormiglioni che non sanno svegliarsi, allora si aiutano a vicenda. Si scrive il proprio numero di telefono, l'email e l'ora della sveglia. Ogni giorno qualcuno ti telefona. Non si può zittire la suoneria se non si risponde e anche tu puoi svegliare chi vuoi. Per ora è attivo in Russia, Stati Uniti e Canada. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in Italia su consumi e abitudini oggi? Non abbiamo bisogno di spostarci all'altro capo del mondo con la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Quit It, che in inglese vuol dire smetterla, è un'applicazione per iPhone che aiuta le persone a liberarsi dalle cattive abitudini, da quella del fumo a quella di mangiarsi le unghie o bere troppi caffè, insomma da qualsiasi mania o routine considerata poco salutare. Di base l'applicazione, sviluppata da tre amici, Francesco D'Amico, Roberto Belardo e Marco Passariello, funziona come una sorta di grillo parlante virtuale che mette alla prova la nostra forza di volontà. Basta creare un obiettivo, ad esempio smettere di mangiarsi le unghie 5 volte al giorno entro i prossimi 2 mesi e confessare ogni volta che non si tiene fede a questo obiettivo. Al resto pezza l'applicazione che, grazie a una grafica accattivante e a un sistema premiante, rende divertente e coinvolgente il percorso di eliminazione del brutto vizio in questione. Più si rispetta l'obiettivo, infatti, e più si acquistano punti e si sale di livello in una classifica, con la possibilità di visualizzare statisticamente i propri progressi. E per fare in modo che la sfida non sia solo con se stessi, la app permette di condividere a modo di ulteriore incentivo e motivazione i propri risultati con gli amici di Facebook e di Twitter. Finisce qui anche questa puntata, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it. Veniteci a trovare, la potrete riascoltare anche lì sulla nostra pagina Facebook, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.